La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, La Rosa Purpurea, allora settimanale di cinema qui su Radio 24. Estate piena, primo weekend estivo e al cinema si sente e come, anzi è già un paio di settimane che l'estate al cinema si sente, anche se meteorologicamente non era così. Qualcuno ha detto colpa dei mondiali, adesso l'Italia ai mondiali non c'è più e chissà che la gente torni al cinema. È anche una possibilità, aiuterebbero diciamo dei titoli, dei film importanti, imponenti che riempissero l'estate, ma questa è una antica questione che non viene praticamente mai risolta. Certo, sta per arrivare nei cinema italiani il nuovo episodio della saga di Twilight, Eclipse, dal 30 giugno in tutti i nostri cinema. Lì gli incassi ci saranno sicuramente, ma bisogna fare sistema, come dicono quelli che se ne intendono, e c'è un po' pochino, non tanto ancora una volta di qualità, e questo è un discorso che affronteremo durante questa puntata della Rosa Purpurea. Non manca la qualità neanche in questo fine settimana. Sentiremo adesso nei titoli di testa quali sono i titoli del menu. Manca una coerenza fra il tipo di film che esce e il tipo di distribuzione che c'è, fra le sale a disposizione quasi sempre per molti bacini italiani. Si tratta di multiplex, di grandi sale con grandi pretese anche di incasso, perché ci sono grandi costi di gestione, e però molto prodotto d'autore, di nicchia, particolare, che fa fatica a trovare invece spazi in quel tipo di sale, ma non trova neanche le sale cinematografiche del centro, che dovrebbero essere quelle deputate a questo tipo di cinema. Insomma, è un rapporto un po' schizofrenico fra distribuzione e fruizione, e cinema e sale, quello che c'è in Italia. Vedremo se qualcuno dei titoli di questa settimana se la caverà, riuscirà a sfondare questo muro. E allora andiamo a sentire i quattro film principali del weekend nei titoli di testa. Quell'isola vicino a New York. Convince e diverte City Island, storia di una famiglia con molti segreti, capitanata da Andy Garcia, che recita di fianco alla bellissima figlia Dominique. Goodbye Mr. Zeus, un giovane stressato e un pesce rosso parlante, protagonisti della surreale commedia di Carlo Sarti, con Chiara Muti e Fabio Troiano. Una nuova strana coppia di piedi piatti americani. Bruce Willis e Tracy Morgan sono i poliziotti fuori del film di Kevin Smith, che rifà Arma letale con meno grinta. Soldatini animati in stop motion per l'ultimo miracolo dell'artigianato applicato all'animazione europea. È Panico al villaggio, esilarante e cinico, nominato e premiato nei festival di mezzo mondo. Questa musichetta vagamente western che sentite in sottofondo è quella di Panico al villaggio, uno dei film di questo fine settimana, un film che merita molta attenzione e, come dicevamo prima in fase di premessa, chissà quanto spazio troverà nelle nostre sale. Panico al villaggio è un'opera in animazione, come si dice, in stop motion, ovvero ogni fotogramma è girato uno alla volta, i personaggi sono mossi, sono animati appunto con questo movimento che poi, visto chiaramente in velocità, sembra un movimento quasi fluido. Si tratta di soldatini, sono veri e propri soldatini con il piedistallo, presi un po' da quelle, sapete, quei set di soldatini del Far West, piuttosto che quelli della fattoria con cui giocano i nostri bambini, abbiamo giocato anche noi un tempo. Ebbene, il film è di produzione belga e ancora una volta sottolinea la grande fantasia non solo europea quando si tratta di animazione, perché bisogna fare i conti con l'arguzia per sfidare i giganti americani, che invece sanno fornare film perfetti sotto il profilo dell'animazione digitale. Ebbene, dicevo, dimostra questo, ma dimostra anche come il Belgio sia proprio una delle patrie del fumetto europeo e anche una delle patrie di questa ispirazione in questo senso. Cosa succede in questo film? Succede che i personaggi sono un cavallo, che si chiama Cavallo, un cowboy, che si chiama Cowboy, e un indiano, che si chiama Indien. E questi sono i tre personaggi principali. Il cavallo è quello che comanda, è quello, il vero protagonista. Gli altri sono un po' due figure metà e metà, che vorrebbero fare un regalo per il compleanno proprio al cavallo, se non che per errore, anziché prendere, comprare via internet 50 mattoni per costruire un barbecue per il cavallo, pensate un po' alla fantasia, ne ordinano 50 milioni. Non sanno cosa fare di tutti questi mattoni sprofondano, fanno sprofondare la casa sottoterra, ebbene vengono fuori dei ladri che si vengono a rubare la casa costruita di volta in volta con questi mattoni. Insomma, è una cosa vicina al demenziale, molto cinico, molto divertente, molto allegro, e ne sentiamo alcuni passi. Una rapida doccia, alito fresco. Sì, signor cavallo, la lezione è iniziata, si è dimenticato un'altra volta? Non l'ho dimenticato, sto arrivando. Arriva Panico al villaggio, con Indiano nel ruolo di Indiano, Cowboy nel ruolo di Cowboy e con Cavallo. Ah, è il suo compleanno? Beh sì, come ogni 21 giugno. Trattenete il fiato. Panico al villaggio. Riprendiamo fiato. C'è molta cinefilia in questo film, ci sono molte citazioni, Viaggio al centro della Terra, appunto i grandi film western, ma c'è appunto un divertimento talmente surreale che chiaramente può accontentare i palati tanto dei grandi quanto dei piccoli. Questo è Panico al villaggio, un film che, se avete la fortuna di trovare nelle sale vicino a casa vostra, vi consigliamo di non farvi scappare, perché è davvero un divertimento diverso da quello che ci offre solitamente il mercato del cinema. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, siamo di nuovo insieme per parlare dei film, delle novità al cinema in questo fine settimana, e come abbiamo detto in chiusura di prima parte, è in collegamento con noi un attore italiano molto apprezzato, giustamente molto apprezzato, fra i nomi più interessanti della sua generazione, Fabio Troiano, che saluto. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Grazie di essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. Per parlare di un film che si intitola Goodbye Mr. Zeus. Esattamente. È un film di Carlo Sarti, che vede nel ruolo di protagonista accanto a te una splendida Chiara Muti. Ed è un film che ci ha ispirato una grande simpatia. Io ho appena finito di parlare di questo film belga d'animazione che arriva nei nostri cinema, che si intitola Panico al villaggio. Ho detto una situazione completamente surreale, dove ci sono cavalli che parlano. Beh, nel tuo film c'è invece un pesce rosso addirittura che parla. Quindi ci spingiamo oltre i confini della realtà. Allora raccontaci un po', consigliaci un po' i motivi del tuo film e raccontaci un po' questa trama. Tu sei un impiegato un po' stressato, come si evince dalle prime scene del film, esatto. che a un certo punto sente parlare i pesci. Esattamente, il giorno del compleanno io regalo questo pesce rosso alla mia fidanzata, che è Chiara Muti. Lei ovviamente non lo vuole, me lo tengo io, e io, che sono stressatissimo dalla vita, forse anche da lei, vorrei fare delle cose che non so neanche io cosa, ma vorrei uscire un po' dal guscio dove mi ritrovo rinchiuso, vedo che questo pesce rosso inizia a parlare. E allora il pesce rosso mi consiglia, mi dice tutte le cose che io devo fare. Io ascolto lui e me ne succedono di tutti i colori. E forse in realtà, alla fine non si saprà mai se veramente questo pesce rosso parla o no. Forse non è nient'altro che la coscienza del protagonista, che il protagonista non vuole dire delle cose per cui se le sente dire dal pesce, ma forse sono quelle che vorrebbe dire lui. Beh, insomma, dopo il grillo parlante, il pesce parlante, potremmo dire, esatto, in questo esatto, senso. Il pesce rosso parlante. Il pesce rosso parlante. Tra l'altro, adesso facciamo sentire una clip del film. Tu al pesce rosso ci arrivi per caso, perché per una serie di concomitanze sei senza soldi, entri in un negozio di animali, parti tu, il tuo personaggio, per comprare un cucciolo molto costoso, un cucciolo di cane molto costoso, e via via degradando finisci al pesce rosso. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Senta, mi scusi, quel cane in vetrina. Ah, quello è davvero un ottimo affare. Un esemplare da esposizione. E quanto costa? Ha un pedigree. Quanto costa? 999 euro. Quello shiatsu. Shih tzu. 299 euro. Scusi, niente shih tzu, ci ho ripensato. Questi qua. Quanto costano questi? 5,50 euro. Tutti? Molto divertente. L'uno. Prendo questo. Quello? No, questo qua, questo. Ah, va bene quello. Ed è così che il personaggio Alberto si presenta a casa della sua fidanzata, che è appunto Chiara Muti, con 3 ore di ritardo e un pesce rosso in mano. Buon compleanno, amore. Scusa il ritardo. No, ritardo. Cosa dici, ritardo per sole 3 ore? Io non direi nemmeno che sei arrivato in ritardo. Ah, no? Ti sei presentato in un'altra era geologica. Non sai quanti negozi di animali ho dovuto girare. È il tuo regalo. Animali? No, amore, mi hai comprato il cucciolo di Reverio. Mentre fai la dichiarazione dei redditi, cane abbaia, rompe i coglioni. E questa è la porta sbattuta in faccia al povero Alberto. Alberto, anzi Fabio, com'è stato lavorare in questo film? Com'è lavorare in un cinema italiano che è sempre un po', come dire, in difficoltà di budget, in difficoltà di tempi, che cerca di sopperire quando può con le idee, insomma, però cercando di fare una commedia? Cioè, questo è un film che si rivolge a un pubblico molto ampio, come sì. Spettro, non è un film di nicchia, ecco. No, assolutamente, un film... È una commedia, vuole essere una commedia, certo, come dicevi tu prima, è un film, una commedia un po' anomala, andiamo sul surreale, sul un pesce che parla, cioè il pubblico italiano forse non è abituato a una cosa del genere, per cui cioè, deve, non lo so, la gente deve aver voglia di andare a vedere questa commedia, però sicuramente nel momento in cui la vedi sorridi, perché comunque fa ridere. A tutte le situazioni che va incontro Alberto, per cui penso sia un bel film. Senti, parlavi prima appunto di questo pesce rosso, appunto Zeus, che è un po' la voce dell'anima, della coscienza del tuo personaggio. È anche un film che è un piccolo apologo sulla libertà che c'è e quella che non c'è. Sì, sicuramente sì, assolutamente. Sulla libertà che uno vorrebbe avere nel dire, nel fare, ma purtroppo... ti trovi sicuramente nella nostra, ognuno di noi sta in una boccia di vetro dalla quale purtroppo a volte non puoi uscire, nessuno ti fa la possibilità di uscire, e quindi l'idea di questo film è appunto l'idea di libertà, la voglia di dire o fare più o meno quello che si vuole. Senti, per un attore della tua generazione, anche il cinema italiano rappresenta un po' una boccia di vetro che non sempre ti fa muovere come vorresti? Beh, sì, cioè se ne potrebbe fare molto di più, si potrebbero fare molte più cose, però purtroppo tra tagli e situazioni varie, purtroppo ci stiamo un po' congelando. Però è bello che ci siano comunque appunto progetti come questo, che anche con pochi soldi, con pochi budget, uno prova lo stesso a fare una cosa e vedere se magari funziona. E allora Fabio, non ci resta che chiedere al pubblico che ci ascolta, se abbiamo suscitato abbastanza simpatia con questo pesce rosso parlante, di cercarsi una sala nella quale venga proiettato Goodbye Mr. Zeus e di andarlo a vedere, perché poi la cosa migliore da fare con i film è sempre quella di vederli. Assolutamente sì, quindi mi raccomando, andate al cinema a vedere Goodbye Mr. Zeus. Grazie Fabio Troiano. Ciao. E dal pesce rosso parlante di Goodbye Mr. Zeus, grazie a Fabio Troiano, noi andiamo alla prima finestra aperta sulla DVD Game di questa settimana. Come sempre c'è da indovinare un film misterioso attraverso alcuni frammenti di dialoghi per provare a vincere il DVD o il Blu-ray di quel film. Sentiamo. Chi è quella popò di figura là? Mio capo, un imbecille. Fammi qui da me, va, mi ci manca solo di far 4 anni di Livorno, là. Bellini, motorino insieme. Avete sentito, ci sono già delle connotazioni, diciamo, importanti, geografiche e di accento. Più tardi un'altra possibilità, ma se avete già indovinato, il nostro indirizzo a cui scrivere la risposta esatta è larosapurpure@radio24.it. Parliamo adesso di un film, di un colossal, uno dei due che arrivano nelle sale italiane in questo fine settimana, insomma uno dei due film di produzione americana, colossal magari è un po' troppo, però insomma ci siamo voluti interessare a questo Cop Out, Poliziotti Fuori, questo è il titolo del film. Perché? Perché è una sorta di, lasciatecelo dire anche se è in tono forse un po' minore, di arma letale, ovvero coppia di poliziotti variopinta, uno bianco, uno nero, formato dalle facce di Bruce Willis, molto nota, e invece quella meno nota di Tracy Morgan, una coppia un po' svitata, come si conviene a questo genere di film, che è un vero e proprio filone della commedia poliziesca americana. Poliziotti fuori, quindi, due sbirri a piede libero. Cosa succede in questo film? Questa è una coppia di poliziotti sempre un po' sul filo, come avete potuto immaginare dal nostro racconto, alla quale un'operazione va piuttosto male. Un informatore viene ucciso, i poliziotti non possono più muoversi in questa zona. Ebbene, i due vengono sospesi per un certo periodo. Ma cos'è qual è il vero problema? Il problema è che a Bruce Willis, al poliziotto Bruce Willis, viene tolto lo stipendio, e siccome sta per sposarsi la figlia e lui contava su quei soldi per il matrimonio, il poliziotto Bruce Willis decide di mettere in vendita una preziosissima figurina di baseball, che è un po' l'elemento, il feticcio attorno al quale ruota un po' poi tutto gli tanti inseguimenti nel corso del film, ed è uno degli elementi per cui mi fa stare molto simpatico questo film, che anche magari è pieno di difetti, ma insomma questo fatto della figurina inseguita di un giocatore di baseball vale $1 milione, viene ovviamente rubata nel momento in cui il poliziotto Willis si appresta a venderla a un antiquario, e da lì in poi nasce tutta una serie di gag. Noi cominciamo a sentire un passaggio, anche per farvi capire un pochino qual è il clima che aleggia un pochino in questa commedia. Ma che fai, amico? C'è un poliziotto! No, metti giù la pistola, calmo! Se ne guai, fratello... Cosa? Tu sei... Ma... mi stai facendo c***o tempo! Questo era il Pacino in Hit. Mi hanno dato la pena di morte in 12 sistemi! Star Wars? Dici di quel pollo adesso. Schindler's List? Ci serve una barca più grossa. Beetlejuice! Tutta roba della TV, via capo. Io non ti sparerò, Frank. Scarface. Ma tu chi sei? E avete sentito questo interrogatorio tutto a base di citazioni, di interrogatori celebri o di frasi celebri dei polizieschi o di situazioni poliziesche nei film del passato. È uno degli elementi, diciamo, su cui basa questa commedia diretta da Kevin Smith, regista che all'inizio della sua carriera ci regalò un film molto, molto apprezzato che si intitolava Clerks, Commessi. Era una commedia strampalata, molto indipendente. Adesso anche lui è entrato un po' nello star system hollywoodiano. Dicevo, quindi, tanta ironia, almeno il tentativo, forse non funzionano sempre fino in fondo le battute, ma il registro è sempre vicino, anche in questo caso, un po' al surreale, che diventa un po' l'elemento di congiunzione dei film di questa settimana. Lo sentiamo in questo dialogo, un momento nel quale una anziana donna rientra in casa, questa casa è piantonata dai nostri due semieroi, e hanno notato che dentro c'è un ladro, insomma, quindi una situazione molto pericolosa, ma la vecchietta se la caverà egregiamente. Signora! Polizia di New York, si avvicini per favore. Sì. Ma che succede? Perché stiamo qui a cucciare? Sono il detective Hodges, lui è il detective Monroe. Una persona si è introdotta in casa sua, signora. Cosa? Ed è ancora dentro. Quello che le chiediamo è di prendere suo figlio, con calma attraversare la strada, andare dal vicino e aspettare lì che noi torniamo, d'accordo? No, non ci penso neanche. A casa mia c'è qualcuno e vado a stanarlo io, quel figlio di puttana. Mi spiega? Un momento! Senta, la metta giù la pistola subito. No, vaffanci, io da qui non mi muovo. Non permetterò a quello di rubare la mia roba. Sono una che lavoro sodo, che c'è? Vuoi far fuori qualcuno, mamma? Vaffanci, ci fai scommettere. Per favore, signora, la metta giù. No, neanche per il C, io conosco i miei diritti. Signora, metta via quella pistola del C. Prenda suo figlio, attraversi quella M di strada. Vada dal suo vicino del C e ci aspetti finché non torniamo. Santo Dio. Avete sentito, ecco, questo è l'epilogo di questo dialogo, appunto, come dicevamo, abbastanza surreale. Come dicevo, non sempre funziona tutto, forse il film è un po' troppo lungo, sicuramente però certe smorfie, una certa fisionomica del volto di Bruce Willis e un po' questo poliziotto sovrappeso che è Tracy Morgan, l'antitesi del poliziotto interventista che abbiamo visto tante volte nel film, tutto sommato permettono di passare, insomma, un paio d'ore di svago molto molto leggero, ma sicuramente simpatico. La rosa purpurea. Eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpura con le note scatenate di uno dei bellissimi brani della colonna sonora di City Island, il film che esce in questo fine settimana nei cinema italiani. con la regia di Raymond De Felitta e con la presenza scenica di Andy Garcia come protagonista di questa pellicola, che è il nostro vero consiglio di questo weekend. Una commedia, ancora una volta, una commedia di razza, però di qualità. Una commedia degli equivoci, ma meglio una commedia dei segreti, se vogliamo, perché la commedia ruota intorno a una famiglia di origine italiana, la famiglia Rizzo, che vive proprio a City Island, la località che dà il titolo al film. Una località bellissima, poco conosciuta, nei sobborghi di New York, un'isola di pescatori, nella quale appunto questo protagonista, Vince Rizzo, fa la guardia carceraria. È una famiglia, dicevo, piena di segreti. Vince Rizzo, per esempio, nel suo tempo libero studia recitazione. È un secondino con un animo artistico. Studia recitazione di nascosto dalla moglie. Chissà, forse quelle remore che tante volte ci facciamo di cosa potrebbero pensare gli altri di noi, delle nostre sensibilità, di quelli che riteniamo, magari sbagliando, lati deboli. Ebbene, questo corso lo fa di nascosto, dicevo, ma non è l'unico segreto, ce ne sono tanti, per esempio quello di una figlia che è Vivienne Dominique Garcia, tra l'altro la vera figlia di Andy Garcia, che ha perso la borsa di studio per andare al college e nel frattempo, per campare, fa la spogliarellista. Anche questa chiaramente un grande segreto. E insomma, qual è il lievito che a un certo punto fa esplodere la torta, fa venire fuori tutti questi segreti e queste verità nascoste? È un ragazzo, un giovane, niente meno che il figlio, anche questo è il figlio fra virgolette segreto, di Vince, del protagonista. Vince, dicevo, fa la guardia carceraria. Un giorno, passando per le celle, per il giro di controllo, si rende conto che dentro in una delle celle c'è un ragazzo che potrebbe essere suo figlio, quel figlio che aveva avuto da una precedente esperienza e che poi aveva abbandonato quando era piccolissimo. Se ne rende conto ancora di più, ovviamente, quando vede la sua scheda e vede il suo nome, e da lì parte tutta una dinamica, perché questo ragazzo è dentro per un reato piuttosto banale e potrebbe uscire se fosse affidato a qualcuno, se qualche famiglia se ne prendesse la cura. Chiaramente l'idea di Vince è quella di essere quella famiglia, e questo scatenerà una serie di dinamiche interne che ovviamente faranno andare avanti il film fino al momento dell'esplosione, appunto, quello in cui tutte queste verità in una sorta di scena madre vengono a galla. Noi andiamo a sentire uno dei momenti iniziali del film, quando questa famiglia, la famiglia Rizzo, cerca di riunirsi, nella quale Vince cerca di dare una parvenza di normalità, anche di serenità, a una famiglia che sembra quasi non volerne sapere. Perché non facciamo una bella cena in casa stasera? Qualcosina di buono? Quello che faccio ogni sabato sera. Qualcosa di più speciale? Fatelo da solo! E allora, avete sentito, la reazione non era delle più così carine. E poi arriva il momento del ritrovamento del figlio, sentiamo. Invece di dirle che segui un corso di recitazione, le hai detto che giochi d'azzardo. Esatto. Molto brillante. Mi preoccupo per la tua istruzione. Pronta per il lavoro? Stasera li voglio spennare. Ho appena conosciuto mio figlio, si chiama Tony. Prendi un avanzo di galera così come capita e lo porti a casa. Non ho preso un avanzo di galera come capita, conosco sua madre. Devo farti una domanda. Cosa? Ti crescono ancora le tette? Perché mi sembrano molto più grandi di prima. Qui il fratellino ha nasato un po' che la sorella è, diciamo così, nello star system. Le rivelazioni, dicevamo. Allora, Vince, Vivienne, la moglie Joyce. Avete sentito la voce dell'amica di Vince, l'amica del corso di recitazione, che sostiene questa sua voglia di provare a fare un provino. A un certo punto Vince cercherà di fare un provino e verrà addirittura preso per un film di Martin Scorsese. Pensate, Andy Garcia preso per un film di Martin Scorsese. E anche questa è una verità che, quando verrà a galla, non farà meno di fare rumore. Sentiamo uno dei momenti della rivelazione. Vince, che gioca a poker, pensa davvero che mi beva questa stronzata? Il mio caro amico Vincent Rizzo ha fatto il suo primo vero provino. Allora io cedessi. Sto facendo per caso un'imitazione di Marlon Brando? Ciao Vince, sei pronta a entrare nella mia cucina? Hai rubato la macchina di mia madre! Tu sei una spogliarellista! Non è contro la legge! Allora non c'è problema se lo dico ai tuoi! Non ci provare, hai capito, sfigato? Puttana! Hai portato quella schifosa della tua amante a casa non mia! Non è la mia amante, ok? Sono una spogliarellista! Sono tuo padre! Oh mio Dio! versione molto originale dell'Abanera della Carmen, questa che sentite, sempre tratta dalla colonna sonora di City Island. Insomma, alla fine, come si usa dire, da vicino nessuno è normale, e il più normale di tutti è questo ex galeotto, questo ragazzo che si guarda intorno un po' smarrito in questa famiglia apparentemente normale, invece totalmente per aria. City Island, dicevo, una commedia particolarmente azzeccata, forse anche in questo caso un quarto d'ora di troppo, forse qualche impurità accademica da una parte e dall'altra, qualche scena un po' troppo in posa, si sente quasi fosse ci fosse una matrice teatrale alle spalle, però una commedia raffinata che appunto non ha paura di mettere in campo le persone come sono realmente e non con quella corazza che mettono davanti a sé quando affrontano la vita. È una commedia che vive molto anche del suo luogo, certo New York, certo Manhattan, ma anche questa City Island, una vera e propria scoperta. È lo stesso Andy Garcia a spiegare così l'importanza di questa location. Beh, credo che la location sia un elemento importantissimo nella sceneggiatura del film. C'è una cultura familiare particolare in quel luogo. Il mio personaggio è orgoglioso di essere nato e cresciuto a City Island. Queste persone si definiscono scavatori di vongole e si contrappongono ai cosiddetti mangiatori di cozze, che sono quelli che non sono nati e cresciuti là, ma vi si sono trasferiti. Andy Garcia, che ha spiegato le differenze importanti, ma effettivamente esistono nel film, di questo City Island, il nostro consiglio della settimana. Abbiamo esaurito il racconto, l'assaggio dei film al cinema in questo weekend, delle novità cinematografiche. Seconda parte, seconda traccia del film misterioso di oggi del nostro DVD Game. Tanto piacere, Luciano Vallesi, titolare di questa proposta d'azienda qui. Si lavora a inventarci lavori, cosa ci vuoi fare, ormai è così. Te invece? Artista, eh? Beato te. Chissà quanta troppa c'è su a Milano, eh? Lì aperitivi, vernissage, sfilate. La più scorfana fa la modella di Dolce & Gabbana. Scusa, si fa per scherzare. Ma poi bisogna anche ammetterlo, come persona sono abbastanza rotto. È molto divertente questa visione di Milano vista dalla provincia. Allora, la rosa purpura a @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, fra poco l'ultima possibilità. E allora, dopo aver parlato dell'attualità, è arrivato il momento di ricordare un attore che ci ha lasciato, come si dice purtroppo in questi casi, prematuramente. È successo alla fine della scorsa settimana. Corso Salani è stato tra l'altro anche un attore con il quale mi è capitato personalmente di incontrarmi più di una volta, è stato ospite di questa nostra trasmissione molto spesso, era un attore e anche un regista molto intelligente, molto sensibile, non ha avuto mai paura di buttarsi nelle cose in cui credeva, e questo ne faceva una persona davvero speciale. È stato in un certo periodo, in un certo passaggio della sua carriera, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, anche un attore di punta del nostro cinema, ma seppe non rimanere schiavo di questa condizione, diciamo così, seppe liberarsi per seguire e perseguire gli ideali e il cinema che cercava. Noi lo vogliamo ricordare così, Corso Salani, in quella che è la sua interpretazione sicuramente più popolare, quella del giornalista protagonista di Il muro di gomma di Marco Risi, il film che in una bella stagione del cinema italiano per il film di denuncia cercò di squarciare il velo sulle omertà che circondavano la strage di Ustica. C'è un momento davvero toccante di quel film, è un vero e proprio monologo che Corso Salani recitava quasi piangendo, è quello in cui il giornalista detta il pezzo sulle verità e le rotative del giornale si aprono, si avviano per raccontare il giorno dopo a tutti quella verità. Sentiamo. C'era la guerra quella notte del 27 giugno del 1980, due punti. C'erano 69 adulti e 12 bambini che tornavano a casa, virgola, che andavano in vacanza, virgola, che leggevano il giornale, virgola, o giocavano con una bambola, punto. Quelli che sapevano hanno deciso che i cittadini, virgola, la gente, virgola, noi non dovevamo sapere. Due punti. Hanno manomesso le registrazioni, virgola. Cancellato i tracciati radar, virgola. Bruciato i registri, virgola. Hanno inventato esercitazioni che non sono mai avvenute, virgola. Intimidito i giudici, colpevolizzato i feriti, punto. E poi, virgola, Hanno fatto la cosa più grave di tutte. Due punti. Hanno costretto i deboli a partecipare alla menzogna, virgola. Trasformando l'onestà in viltà. Aggiungi soltanto perché, interrogativo. La rosa purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, siamo alle visioni domestiche, al cinema da vedere, rivedere e registrare dentro le nostre pareti, davanti al nostro televisore. Come sempre, rigorosamente gratis, almeno per quanto riguarda i consigli che ogni settimana ci facciamo dare dagli amici della settimanale Film TV, che vanno a spulciare all'interno dei palinsesti televisivi, delle TV in chiaro. E sentiamo che cosa ci ha riservato per questa prossima settimana Sara Sagrati. Buongiorno Franco, bentrovati con la segnalazione della settimana di Film TV, che è molto estiva. Infatti con l'estate i palinsesti di solito si tingono di bianco e nero, e infatti su Rai 2 mercoledì 30 giugno in prima serata ci sarà il bellissimo Vacanze Romane, commedia romantica per eccellenza, una favola un po' al contrario, perché è un uomo che incontra una principessa, e quindi la favola di Cenerentola al contrario, e soprattutto un film che ha avuto il pregio di lanciare la carriera di Audrey Hepburn. Un film che ha avuto anche un altro grande merito, che è quello di lanciare un nuovo mezzo di locomozione a due ruote, che era la Vespa o la Lambretta, insomma, quasi è la stessa cosa, in quella scena meravigliosa in cui Peck e la Audrey Hepburn vanno in giro in questa bellissima città fotografata con delle lunghissime profondità di campo a cavallo della due ruote. Una Roma che non sarà mai più così bella, e un Gregory Peck, giornalista e paparazzo, che non può che innamorarsi della sua bella principessa Audrey Hepburn. D'altronde, come dargli torto. Con questo è tutto e a risentirci la prossima settimana. E allora, grazie a Sara Sagrati, ricordiamo ancora l'appuntamento, Vacanze Romane, un film che non è mai troppo tardi per scoprire e non è mai abbastanza da vedere, mercoledì 30 giugno, Rai 2 alle 21.10. E siamo alla terza traccia del film misterioso di questa settimana, ascoltiamo. Cioè, tua madre si sposa e te non mi dici niente? Meno male che mi ha invitato lei, io adoro i matrimoni. Come ti ha invitato lei? È bellissima Livorno, no? Perché dici sempre che fa schifo? Si sente proprio il profumo del mare. Mia sorella Valeria. Finalmente ti conosco. Tu sei stato per lui, eh? Infatti, col cavolo è questo testone mi presenta la sua fidanzata. Film recente, La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere appunto una visione domestica con il DVD o il Blu-ray di questo film. Noi abbiamo fatto il gioco ovviamente anche 7 giorni fa e avevamo sentito questi trailer. Giulia davanti ai fornelli esercita su di me lo stesso fascino di un suonatore di timpani in una sinfonia. Lo sportello del forno si apre e si chiude così velocemente che quasi non si nota il gesto abile con cui affonde il cucchiaio in una pentola e lo porta poi alla bocca per assaggiarlo. E insomma, c'era il nome Giulia, c'era la cucina, per chi lo aveva visto al cinema o per chi ne ha semplicemente sentito parlare non era poi così difficile indovinare Julie and Julia, il film uscito all'inizio di questa stagione, targato Nora Ephron, una firma della commedia sofisticata contemporanea americana, con una grande Meryl Streep protagonista. Hanno indovinato prima di tutti e quindi riceveranno il Blu-ray di questo film Paola Ciampolillo di Monza e Nicoletta Nava di Karate Brianza, insomma due donne e due donne che vivono in Brianza, quindi siamo stati un po' monotematici e monogenere in questa puntata, ma insomma è andata così, il sabato e la domenica è andata così. E allora noi chiediamo al nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi, di raccontarci un po' quali sono i contenuti, qual è il valore insomma non solo di questo film ovviamente, ma anche di questa uscita in un video. Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il Blu-ray di Sony Pictures Home Entertainment per quanto riguarda Giulia e Giulia è di eccellente qualità. Segnalo fortunatamente la presenza di una traccia ad alta risoluzione anche per l'italiano, oltre che per l'inglese. Sono veramente tantissimi gli approfondimenti per quanto riguarda questo Blu-ray. Ricordo che è disponibile anche comunque il DVD. Ci sono vari focus sulla lavorazione, sul vero personaggio di Giulia e addirittura la possibilità di inviare via mail le ricette che sono presenti all'interno dell'opera. Rimaniamo a questa stagione cinematografica, Claudio, perché uno dei film più attesi in assoluto, di cui si parlava da più tempo, per la stagione 2009-2010 era senza dubbio Nine, il musical cinematografico tratto dal musical teatrale di Broadway americano che ha avuto tenniture record, successi straordinari e che però non si è trasformato in un successo altrettanto forte anche nelle sale, tanto in America quanto in Italia. Film, lo ricordo, che è assolutamente ispirato al capolavoro di Federico Fellini, 8 e mezzo. Sentiamo. Ho delle domande per il signor Contini. Sì, abbiamo tutti domande per il signor Contini. Sì, ma la prego, io credo che sia una normale procedura avere un copione e un budget approvati prima che inizino le riprese. Ci starà sempre dietro? Non è mia intenzione fare il difficile, maestro. Io sono un grande ammiratore dei film del maestro Contini. I suoi primi film sono... tutti li amano. E io lo considero un grande onore per me essere qui ora. Sì. Ma tuttavia ho bisogno di un copione del budget. Dove li vuole i messaggi? Sulla mia scrivania. Non c'è posto sulla sua scrivania. Allora sotto la scrivania nel cestino, non lo so. Ciao Paolo. Alcuni sono d'accordo. Anni 60, l'acclamato regista Guido Contini ha scalato successo mettendo a segno una serie di amabili opere con qualche flop al seguito, riflesso di una situazione di disagio nella vita. Tutto è pronto per iniziare la nuova pellicola, ma in realtà Guido è in crisi creativa. Da Rob Marshall, regista di Chicago, un omaggio al maestro Fellini e al suo capolavoro 8 e mezzo, il DVD, ma soprattutto Blu-ray di 01 di Distribution è di eccellente resa. Sono due tracce di TS ad alta risoluzione italiano e inglese, molto molto interessanti. Il consiglio è l'ascolto anche dell'originale inglese mista a parole in italiano. Sono tanti gli extra, tra cui segnalo approfondimenti sui personaggi, il ricordo di Cinecittà da parte di Sofia Loren e 43 minuti di incontro del pubblico con il cast. E allora, abbandonato Nine, noi andiamo all'ultima proposta di questo fine settimana per quanto riguarda l'home video. Facciamo un salto indietro di 8 anni con questo film di guerra, We Were Soldiers, con un cast capitanato, è il caso di dirlo, anche se un tenente colonnello nel film, da Mel Gibson. Tutti gli ufficiali qui, avanti! Sì, venite qui. Sergio, impara quello che fa il tuo superiore. Insegna quello che sai al tuo inferiore di grado. E questo vale per tutti voi, intesi? Sì, signore. Atterreremo sotto il fuoco, signori. E gli uomini moriranno. Dall'omonimo bestseller del colonnello dei Marine Harold Moore e del corrispondente di guerra Joseph Galloway, il racconto epico e drammatico dei primi 3 furiosi giorni di battaglia nella valle dello Yadrang tra l'esercito americano e i soldati del Vietnam del Nord nel novembre del 65. Il film segnò il nuovo incontro nel 2002 tra Mel Gibson, che qui interpreta il colonnello Moore, e il regista Randall Wallace, già sceneggiatore di quel Braveheart diretto e interpretato dallo stesso Gibson nel 95. Il Blu-ray di Medusa Film ripropone per la prima volta la complessa cinematografia dell'opera, doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione italiano e inglese e lo stesso ampio volume di extra del DVD, tra cui segnalo 2 approfondimenti sulla lavorazione, incontro con cast e troupe e scene tagliate con commento opzionale. Grazie Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana qui alla Rosa Purpura per raccontarci delle uscite in un video. Chissà se la prossima settimana avremo un nuovo padrone delle classifiche, forse il film con Bruce Willis, chi lo sa, sicuramente classifiche che languono, perché al primo posto c'è sì L'A-Team, come ci si poteva aspettare, ma con soli 898.000 euro di incasso nel primo weekend, e questo sicuramente non ce lo si aspettava. Insomma, l'estate è ancora, come dicevamo all'inizio, piuttosto morbida rispetto agli incassi al cinema. Aspettiamo anche l'avvento di Eclipse, il nuovo episodio della saga di Twilight, la prossima settimana per rimpinguare un po' le casse. Ne parleremo fra 7 giorni qui alla Rosa Purpurea, il sabato alle 18, la domenica dalle 15. Un saluto da Franco D'Assisti.